Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. E allora siamo qui alle 8:20 minuti, caro Oscar, ci siamo, eccoci. Questo 19 ottobre, hai fatto il cattivello, ti ho sentito. Con chi hai fatto, ho fatto il cattivello? Con Maradona, poi ne parleremo. Maradona, dai. Con Vandanara, con Icardi, cattivellone. Dai che Vandanara, cioè, mi viene proprio in mente, ma uno deve avere un controllo proprio sul marito, cioè del tipo fa qualcosa di male, la tradisce, la manda a giocare, non lo so, negli Emirati Arabi. No, non la manda negli Emirati Arabi, ma magari la manda negli Emirati Arabi. Vandanara ha un caratterino, caro mio, quindi meglio che riga dritto questo Icardi, negli Emirati, gli Emirates, non gli Emirates. Gli Emirates. No, ma dai, detto questo, fantastico. No. Rilascio un'intervista in cui si dice commossa dalla reazione della curva. Appunto, sta con la curva. Fantastica. E dice praticamente al marito, muto. Beh, ma aveva delle buone ragioni per dirlo, no? Sì, sì, viva le donne quando sono così. È la presenza solida del duo, quella. E anche su Maradona, secondo me, guarda che tu cadi nella trappola mediatica delle agenzie tributarie. Ma io non so se lui debba darci i soldi, no? È una vicenda legale. Nel merito, la vicenda legale, lui sostiene la tesi che ha un certo fondamento. Naturalmente è facile, no? Dire alla gente, Maradona, che non paga, vedi Maradona. Mi sembra più un'intervista fatta dal suo avvocato, perché discetta di more non agi. Non ti sbagli, secondo me, che uno insomma, si immagina non siano esattamente sulla punta delle dita della mano di Dio, per così dire, no? Però insomma va bene, dai, ma ci arriviamo con calma. Ecco, ci arriviamo con calma. Oggi santi, Santa Laura di Cordova, soprattutto San Paolo della Croce, che è un personaggio particolare perché fondò nel 700 fondò i Passionisti, quando gli ordini venivano chiusi dai re che non ne potevano più, vedi, i Gesuiti. Lui rilanciò questa cosa della croce. Tra le cose tra gli altri santi però che mi stanno più simpatici oggi, San Cleopatra l'egiziana, c'è anche una Cleopatra egiziana che diventa santa, e poi uno dei nove che portano questo nome, che sono santi nel calendario liturgico, San Lupo. Ci sono nove San Lupo e mi è sempre stato simpatico. Non mi sono sempre trovato come mai tutti e nove sono vescovi. I vescovi si chiamavano lupi e perché? Perché le pecore, i lupi, capito? Cioè, la chiesa immagina tutte un po' come l'agenzia delle entrate. Un po' come l'agenzia. Invece non è Santissimi Vito e Modesto oggi, ma è letto che nella parrocchia di Santissimi Vito e Modesto a Spinea è sparito il prete, è sparita la perpetua e sono spartiti 200.000 euro. E l'agenzia delle entrate indaga anche in quel caso. Ecco. Allora, oggi il Veneto entrava in Italia nel 1866. Cari veneti, non so se ne siate proprio così ancora contenti, però terza guerra di indipendenza e questo fu il risultato. A compiere gli anni oggi Carlo Rossella, Barbara Palumbelli. Benissimo, invece cari italiani, 800240024, allora vi piace questo atteggiamento verso il contante del nostro governo? Per esempio vi chiediamo questo, state con Maradona? Oh, state con Maradona? No dai, state con Maradona, scherzo, è ovvio che la risposta è no. Cioè Maradona che dovrebbe, secondo il fisco, dare 40 milioni, di cui 35 sono sanzioni, more, eccetera. Per cui subito hanno detto, eccolo il condono Maradona. Ecco il condono Maradona. E lui si è molto arrabbiato. Questo l'ha detto l'agenzia dell'Equitalia da dentro, che è in lotta con il governo. Ma tu l'hai vista? Io devo dire. Su questa ragione però lui a dire, non chiamatelo Voglio condono Maradona. Voglio dare atto a Vincenzo Visco, che è capace di polemiche brutali, ma con un'eleganza rispetto alle polemiche da bar, che di solito dominano, che va sottolineata. Ieri la sottile perfidia con cui Vincenzo Visco, additato da Renzi proprio due giorni prima come l'autore di Equità, ha detto no, scusate, fatemi capire, ma a questo punto dobbiamo liberare Corona, vogliamo lasciarlo da solo in galera a pagare visto che c'è il condono sul contante. Vincenzo Visco, una battuta tagliente ma elegante. Ma infatti ieri sull'Unità ha scritto, per carità di patria, sorvolo sulle dichiarazioni dell'evasione fiscale di questo governo. Questo è il clima anche a sinistra, voglio dire. Anche, soprattutto a sinistra. Vabbè, da destra ci sono già le critiche, ma a sinistra... Vabbè, da destra diciamo su queste critiche fa il minimo indispensabile su questi argomenti, come è ovvio. La sinistra è animata da un vero Vietnam, svampa la polemica, perché da una parte ci sono gli autori storici degli attacchi a nome della lotta all'evasione, e dall'altra c'è chi come Renzi la pensa come Berlusconi. Ma secondo te, Oscar, perché vogliono mettere mano al contante, dicendo che se è un contante proveniente da attività illecite è bene che si metta mano su questo contante? Spieghiamo tecnicamente qual è la ragione di questa norma, cioè di questa norma non è ancora il testo, non ce l'abbiamo, però insomma si dice, e la semplificazione del passo sui giornali è: di fronte a vaste contanti messi da parte nella vostra cassetta di sicurezza, li metterete in regola con due aliquote, 15% e 35%, sì. 35% massimo, come hai detto tu anche nella rassegna stampa. A che io capisco che molti dicono: boh, ma se io ho contante perché ci devo pagare il 35%? Allora, da una parte, illecito. Da una parte questo significa che ci vuole l'accertamento preventivo se sia lecito o meno la provenienza, ma la realtà, parliamoci chiaro, cari ascoltatori e ascoltatrici, perché sono le donne di solito quelle che gestiscono le cassette di sicurezza in famiglia, o se lo fanno i mariti è all'insaputa delle mogli, quindi le mogli sono intelligenti e di solito le famiglie ricche mettono le zampette per capire qual è la consistenza di ciò che è nella cassetta di sicurezza. Allora, questa norma serve a far cadere il residuo di segreto bancario che è rimasto in Italia, mentre, come sapete, sulle sui conti lo Stato sa tutto. In teoria neanche le banche, sottolineo tre volte in teoria, neanche le banche sanno cosa avete nella cassetta di sicurezza. È ovvio che la misura di sanatoria sul contante serve a che l'agenzia delle entrate e i magistrati possano finalmente mettere le manine, ma mi è scappato le manette, in ciò che avete le cassette di sicurezza. Regolatevi. Quindi secondo te chi vuol mettere mano a queste cassette di sicurezza sono ovviamente gli inquirenti, la Guardia di Finanza e le mogli che non sanno delle cassette di sicurezza segrete dei mariti. In questo lo Stato è sottile, sa di potersi avvalere di un alleato interno, la quinta colonna all'interno della famiglia sono le mogli. Le vandanara che ci sono in tutte le nostre. Poi la mia ha pure lavorato per l'agenzia tributaria al SOGEI, quindi... pensavo per vandanara. No, magari non sono i cardi. E quindi insomma questa è la situazione. Guarda che Vandanara lo sa cosa c'è nella cassetta di sicurezza, questo te lo posso garantire. Non c'è dubbio, lo controlla lei. Certo, il 35% va colpito, è come aliquota massima per chi ha qualche provento illecito. Certo, uno dice l'avesse dichiarato e non illecito, forse avrebbe pagato anche quella, anche di più di quella aliquota del 35%. Ma perché molti ieri hanno iniziato a chiedermi, naturalmente, diciamo, out of the blue, come si dice, cioè al riparo della riservatezza: ma perché devo pagare una cosa? Io li utilizzo piano piano. Poco. Dice: forse non hai capito, se passa questa cosa, cassetta di sicurezza, ops, in 5 minuti non puoi più tenerlo, perché arriveranno a dire: vi consentiamo l'emersione, paf. E quindi poi anche lì c'è chi dire, ci ingamberiamo sulle parole, c'è chi dice che è un condono, il ministro Padoan dice che non è un condono, ma che può dire? Lei deve dire che non è una sanatoria. La rottamazione delle cartelle è sempre un condono, cioè è lo Stato che ha bisogno di entrate aggiuntive e quindi dà condizioni diverse da chi invece fino a ieri come un fesso ha pagato con gli interessi di mora legale. Ti faccio capire, finalmente, scusami, escono i numerini, almeno qualcuno della manovra, per capirci perché lo Stato è costretto a ricorrere a questo. Allora, su 27 miliardi di manovra, un numerino solo senza annoiare, 12 sono in deficit aggiuntivo. Dei rimanenti 15, altri 12 sono da entrate aggiuntive, e in queste entrate aggiuntive 7 sono one off, sono queste cose qua, cioè sono una tantum. Ecco perché, come vedi, lo Stato è costretto a questo. Infatti l'Unione Europea pare, secondo i giornali, abbia detto o cambiate sono questa cosa, e 12 di entrate aggiuntive, altro che ferme le tasse all'entrata. Però vogliamo chiedere intanto se è un condono o no, lo chiediamo un ospite, Antonio Fiume Freddo, che abbiamo già avuto, è presidente di Riscossione Sicilia, quella Riscossione Sicilia che mi pare di capire anche il sottosegretario Faraone ha detto andrebbe cancellata, insomma, come equità, è l'equivalente di Equitalia in Sicilia. Eccoci qua, Fiume Freddo, buongiorno. Buongiorno, eccomi. È un condono quello, lei vede condoni? Beh, insomma, la nostra è una lingua di origine bizantina per certi versi, possiamo chiamarla come vogliamo, ma esatto. È un condono. Certo, certo. Ma che succede? Chi ha pagato e chi invece non pagherà quegli interessi di mora che erano ingiusti, ma lo erano anche soprattutto per chi li ha pagati. E poi soprattutto è solo a tempo, perché poi dopo... si torna a pagare come prima, certo. Quindi è tecnicamente un condono. Certamente. Fiume Freddo, ma invece riscossione Sicilia che succede? Sparisce anche come Equitalia? Che poi bisogna capire, vabbè, sparisce, ci sarà qualche altro ente che chiederà conto. E no? Magari però se sparisce non più un presidente che fa pagare coloro ai confronti dei quali la riscossione siciliana non faceva l'esecutività però del titolo fiscale. Questa è la differenza. Vabbè. A me sembra tutta una grande trovata di tipo molto demagogico, perché scompare Equitalia, probabilmente scomparirà in futuro anche riscossione, ma rimane il problema del rapporto che c'è col fisco, è un rapporto assolutamente vessatorio per i cittadini e probabilmente si torna al vecchio passo, cioè quello di far pagare i poveracci e dare un rompete le righe a tutti gli altri. Insomma, la sensazione mia è che ci sarà un grande caos. Io prevedo nei prossimi mesi, al contrario, soprattutto in Sicilia, di fatto un blocco delle entrate, no? Perché oggi tutti dicono: ma che faccio? Pago e poi dopo pago gli interessi, non li pago, pago il tributo netto. Siamo da ieri praticamente pieni di abbiamo bloccato persino il centralino ieri di telefonate di persone che affollano le sale d'attesa di riscossione perché si chiedono come debbono fare, ma quelli che se lo chiedono sono già i cittadini modello, cioè chi non se lo chiede e non paga più. Cioè lei ci dice che si sta già registrando anche in Sicilia, come si leggeva sui giornali anche in Italia, un atteggiamento, dice, aspetta a pagare, forse non conviene in questo momento. Ma certo che sì, il segnale è terribile, cioè non è un segnale positivo, assolutamente. Il segnale è che nell'immediato, tra l'altro noi non siamo in grado di dare spiegazioni precise, perché c'è veramente un caos. Perché le norme non ce l'ha nessuno nel frattempo. No, perché qui oramai si vota in Consiglio dei Ministri come si vota nelle giunte municipali dei piccoli paesi, cioè manca il testo, si vota sulla buona volontà, no? E allora che succede? Succede che noi non diamo indicazioni precise, non si sa in quale misura ci sarà l'altro, se è scomparso, se non è scomparso, se è del 3, se rimane del 6 per le vecchie partite, che significa in quale misura e da dove gli interessi legali, su cosa si applica lo sconto perché ha finito quasi la rateizzazione. Veramente una situazione che creerà contenzioso, un calo delle entrate, indubbiamente, e una festa grande per tutti quelli che vorranno farla franca. Non è una misura chiara, non è una misura chiara. Poteva essere una grande misura, cioè non c'è dubbio che lo Stato ha bisogno di incassare, che la Regione ha bisogno di incassare, ma allora si abbia il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, aiutiamo le persone, facciamo un provvedimento stabile, aboliamo certi tassi di usura, ma facciamolo per sempre, no? Sì. Magari per avviare una riforma, non così. Poi dopo c'è chi ha già pagato e che magari dirà sono il più fesso. Ma vabbè, qui rientra nella logica del condono, chiamatelo come volete. Capito, di fronte alla quale però, Alessandro, noi abbiamo il dovere, formazione, poi rispetto prima di tutti, di ricordare che tutti dicono, gli altri come vedete scassano la credibilità. La credibilità è bilaterale, no? Deve essere simmetrica, cari ascoltatori. Lo Stato deve avere la credibilità dicendo, dando una parola e mantenendola, e dall'altra a quel punto pretende giustamente che il contribuente faccia il suo dovere e non ne vada. Allora, una parte politica dice dei condoni dell'altra, vedete, loro fanno i condoni e scassano questo rapporto, e hanno ragione, noi non lo faremo, poi vengono anche loro e lo fanno anche loro. Questa cosa scassa ogni volta il rapporto e quindi ogni volta abbassa il livello dello spontaneo dell'adesione del contribuente. È così, purtroppo. Però lei, Fiume Freddo, quando dice tassi da usura, vuol dire che le sanzioni per il mancato versamento sono comunque esagerate, questo si può dire? Sono esagerate, ci sono alcune sanzioni, mi riferisco ad esempio ai bolli, dove si arriva al raddoppio, e questo è ingiustificato, cioè questo è una punizione che non tiene conto del fatto che non tutti quelli che non pagano sono degli evasori. Ci può essere una difficoltà oggettiva, allora devi anche, come Stato, tra le tue insegne c'è la credibilità, come dice giustamente lei, devi anche trattare equamente nella punizione e nella sanzione. Quindi oggettivamente anche per il futuro alcuni interessi e alcune sanzioni e alcune soprattutto le sanzioni andrebbero rapportate all'entità del tributo, cioè non si può arrivare mai al raddoppio. Al raddoppio. Ma avete già fatto una stima di quello che perdereste in Sicilia se venisse dato un colpo di spugna diciamo totale, anche all'aggio, anche se appunto al momento non si sa se viene diminuito, se rimane, se... Ma c'è una perderemmo circa 1 miliardo di euro l'anno, lo perderemmo senz'altro. Non so in che modo poi si penserà di recuperarlo, perché mi pare irrecuperabile. 1 miliardo di euro l'anno significa per le casse, significa mettere ulteriormente col sedere per terra la comunità, no? Cioè, quindi significa veramente rompere ogni rapporto tra la tassazione e i servizi. Questo è quello che sta succedendo, cioè il messaggio è un messaggio estremamente negativo. Ma lei che messaggio voleva? Cioè cancellare quindi le sanzioni? No, diminuirle magari sì, però... No, io dico va benissimo cancellare le sanzioni, va benissimo chiamare col proprio nome, cioè condono, rendere stabile la misura, cioè consentire alle piccole imprese, al cittadino di avere un fisco più equo. Una misura una tantum fatta in maniera così caotica non porta bene, perché non è vero che porta più denaro. È come quando per il contrario si aumentano le aliquote, per esempio dell'IVA, ma poi diminuisce il gettito. Cioè questa misura così poco lineare nell'immediato non porterà ad altro che all'atteggiamento sfiduciato della gente, che dirà vabbè adesso intanto non pago, poi vedremo. Ecco, quindi ci vogliono provvedimenti che in materia di fisco, in materia di riforma della riscossione, siano stabili, non una tantum. Quello avrei capito. Il provvedimento va bene, ma per il futuro non ci sarà più una sanzione in quella misura, sarà ridotta al 10%. Insomma, sì, perché senza proprio sanzioni uno non paga nulla. Certo, assolutamente. No, infatti, bisogna discriminare chi paga da chi non paga, non c'è dubbio, ma in maniera equa, no? Non è che possiamo tagliare la testa a chi magari ha avuto difficoltà. Quindi io trovo che come sempre ci sia un approccio che poi tra l'altro non serve neanche dal punto di vista elettorale, perché ripeto, il caos che si sta determinando nei nostri uffici è la confusione, no? C'è chi pensa che avendo abolito Equitalia non si pagano più le tasse. Non è così. No, ma è chiaro. Esatto. Sarebbe ben godi. Sarebbe bellissimo, ma mi immagino la chiamata. Quindi non devo più nulla di tasse. Evviva! Evviva. E invece vabbè, non è così. Però noi la ringraziamo, Fiume Freddo, grazie per queste spiegazioni. Anche perché come vedi, sono tecnici pubblici capaci di parlare un linguaggio chiaro. Esatto. Che li espone, perché alla politica non piace sentirsi dire queste Presidente cose. Presidente di Riscossione Sicilia. Vediamo se Ciro da Napoli si espone. Buongiorno Ciro, lei può dire quello che vuole, tanto non ha carica politiche, può dire quello che pensa. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'opportunità che mi date questa mattina. Allora, la mia questione è questa: io sono un artigiano, sono impegnato nel settore automobilistico, travolto dalla crisi al tempo che è stato, e praticamente mi sono trovato a un bivio: mandare avanti la famiglia o pagare INPS e tutto quanto. La mia scelta è stata quella di mandare avanti la famiglia, e non mi vergogno a dire grazie all'aiuto della pensione di mio suocero. In quel caso lo Stato per me non esisteva. Ora mi sono ritrovato con un debito lievitato negli anni a una cifra praticamente per me insostenibile. Allora, approfittando adesso di questa occasione, io voglio sanare il mio debito con lo Stato, ma preciso quello che è il mio reale debito. Non è che 5-6 mila euro che tanto ammontava il debito è arrivato a 24 mila euro. Perché questo è? E questo per me è una cifra esorbitante. Le famose sanzioni di cui sta parlando Fiume Freddo, sanzioni esagerate. E tutto quanto, insomma. Cioè, allora a questo punto però per me è un'offesa sentirmi dire che io sono un condonato o accostarmi a un evasore, perché io dall'84 fino all'anno della crisi ho sempre onorato tutto quanto quello che era il mio dovuto nei riguardi dello Stato. Cioè adesso sentirmi accostato a un corona, a un evasore, per me è una grossa offesa. Magari a Maradona va bene. Scherzo Ciro, essendo di Napoli immagino. Magari Maradona le sta bene come accostamento. casca male con il calcio, signor Milan, perché non sono tifoso. Va bene. Quindi non, va bene. No, però Ciro, lei ci pone un problema serio, Oscar, dice, fino a tot anni ho potuto lavorare, poi uno può essere nella situazione anche di non riuscire più a pagare e di dover scegliere la famiglia, e poi da 5.000 euro sale a 24, perché sei perplesso. No, io sono perplesso perché naturalmente nel mentre io capisco l'intervento, non posso non capire chi da casa dice, beh, che c'entra? Io ho fatto i salti mortali, c'è un mucchio di gente che si è impegnata dei debiti fino al collo per pagare. Allora, il problema è, esistevano procedure dichiarate per l'accertamento di mancanza di reddito assoluto per crisi che impediva l'adempimento del dovere fiscale? Sì. Anche se abbiamo impiegato anni per averle, negli anni di crisi all'inizio non esistevano, ma poi sono emerse, le hanno configurate nell'ordinamento. Allora, a questo punto, senza far perdere tempo tecnico, dovremmo chiedere al nostro ascoltatore, ma lei ha esperito quella strada? Cioè è andato di fronte all'amministrazione tributaria dicendo vi dimostro il fatto che non sono in grado di pagare, eccetera, allora, eccetera. Aspetti, perché se ci mettiamo a fare questo discorso perdiamo tempo. E solo per dire, rispondevo alla domanda di Alessandro Milan, che ovviamente io non posso dirle, le do ragione, perché non so se ha fatto questo. Se non ha fatto questo, lei deve capire che per milioni di contribuenti che hanno faticato bestialmente a pagare tutto quello che lo Stato nel frattempo chiedeva, è difficile che possano essere d'accordo con lei. Io lo dico con lo spirito di non farci dividere, però per giustizia ed equità, chi ha pagato e ha fatto i salti mortali, certo, non può capirlo con questa telefonata. Dice no, scusa, tu non hai pagato, io invece ho venduto tutto quello che avevo. Se lei non aveva più niente da fare, ecco, perché gli altri la capiscano, deve essere andato di fronte al Ministero Tributario dicendo guardate, sono tutto trasparente, non c'ho più niente, campo solo con la pensione di mia suocera, non vi posso pagare, e allora è diverso. Però non le chiedo di rispondere perché sennò il tempo no, ma anche perché dobbiamo andare in pubblicità. Comunque Ciro ci ha posto una problematica personale, come tutte le problematiche personali poi hanno una prospettiva, insomma è quella di Ciro da Napoli, della sua famiglia. Ognuno potrebbe raccontare una storia una storia diversa, anche perché Oscar, noi dopo avremo il professor Luca Antonini per parlare in Vandanara, no. In Vandanara, no. Spesso non c'è, no, ma no, dai, con non grandi gioia del professor Luca Antonini. Ma che ne parliamo a fare del referendum? Obama ha votato, è finito. Infatti Obama secondo voterà, i giornali italiani voterà, è tutto Obama finito. Obama ha già deciso come va a finire. No, Obama ha detto come voterà lui, perché voterà, no? Sì, beh, come diciamolo per scontato sui giornali. Obama alcuni ci hanno fatto sì, il titolo di apertura addirittura. Obama voterò sì, allora vorrà dire che voterà. No, vabbè, dai, parleremo del referendum oggi, le ragioni del no del professor Luca Antonini tra poco. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane, tra l'altro. Caro Oscar, un ascoltatore ci scrive che mentre parlavamo di Equitalia si è oscurato il segnale della radio. Ma no, so che così ti fornisco un assist. No, ma no, dai, ti ricordo, no, ormai io sono anzianotto, quindi io mi ricordo la vecchia pubblicità e scura la vallata, c'è cioè Giocondo rimpicchiata, tu sei troppo piccolo, non te la puoi ricordare, però ogni tanto avviene. No? Va bene, ogni tanto avviene, no, infatti, non facciamo queste associazioni. È un po' come, era, no, perché era uno spot bellissimo, perché questo Condor che voleva sempre, poi non riusciva mai ad acchiappare nessuno e quindi finiva sempre schiantato, e diceva e che c'è scritto Joe Condor, certo, che è un po' la fine del contribuente di fronte all'agenzia di entrate, sempre. Giorgio da Carpi è velocissimo, per cortesia, nella sua considerazione, che poi dobbiamo parlare di referendum. Giorgio, buongiorno. Sono convinto che Matteo Renzi, sì, che è assolutamente ospite dal punto di vista, ma gli riconosco un'intelligenza notevole dal punto di vista strategico, abbia messo in piedi questo incontro con Obama, ma è sostanzialmente la conclusione della sua strategia. Lui ha iniziato con Confindustria, Confcommercio, Coldiretti, eccetera, eccetera. Prima, la prima sua dichiarazione, se perdo me ne vado, quindi li ha costretti, questi signori che l'hanno messo lì, ad appoggiarmi. Però Giorgio, concludo ha una logica, fatto, no, ma voglio dire, ma però dico, quello che sta dicendo lei ha una logica, ogni uomo politico persegue una logica della comunicazione. Io faccio semplicemente però notare a Giorgio e agli ascoltatori che siamo un po' troppo egocentrici, cioè secondo lei Renzi ha deciso di andare da Obama o Obama forse sceglie lui, non che Renzi dice ho voluto andare da Obama. Con chi fa lo stay in. Adesso forse siamo un po' troppo esagerati, è stato invitato, mi sembra una cosa anche importante. No, però che lui si sia battuto da due anni per questo è noto. Ma non c'è dubbio, però non è che uno chiama la Casa Bianca e dico mi imbuco anch'io. Comunque Giorgio, la ringraziamo, è stato mi imbuco allo state dinner, una cena abbastanza importante. Giorgio, la ringraziamo. Allora, professor Luca Antonini, buongiorno, lei insegna diritto costituzionale all'Università di Padova. Eccoci qua. Buongiorno. Però tanto il referendum è inutile perché i giornali italiani dicono ha che con Obama ha già vinto. Ha sì, votato quindi. Obama. No, poi ci dicono, ditelo bene che è uno scherzo, che Obama vota perché sennò qualcuno ci crede. Oh, no, mia, Obama non vota in Italia, non vota in Italia, non ancora. Allora, professor Antonini, ieri parlavamo del perché sì con il professor Fusaro alla manovra, alla riforma, dicendo che non causa derive autoritarie, questa è la posizione di Fusaro. Lei ci deve spiegare il perché invece, e quindi è per il no, c'è questo rischio, c'è? No, beh, il rischio c'è perché il Parlamento in seduta comune è completamente svuotato. Noi abbiamo una Camera che mantiene tutti i suoi componenti, 630, il Senato da 315 viene ridotto a 100. Nella Camera chi con l'Italicum, come mettiamo col 28%, viene portato al 54%, a questo punto il Parlamento in seduta comune, che deve eleggere il Presidente della Repubblica, i giudici della Corte Costituzionale, i CSM, è in balia di chi ha vinto le elezioni per la Camera. Quindi capite? Basta quindi controllare la Camera, certo, dice, a e questo si può punto 100 senatori non riequilibrano più, il Parlamento in seduta comune è squilibrato. Infatti nella commissione degli esperti del governo Letta si diceva riduci la Camera alla metà e dimezzi anche il Senato, allora rimaneva un equilibrio. In questo modo, Senato squilibrato, peraltro eletto con un metodo tipo proporzionale, fa saltare completamente l'equilibrio del Parlamento in seduta comune, cioè il Presidente della Repubblica non rappresenterà più l'unità nazionale, rappresenterà il partito che con l'Italicum ha vinto le elezioni, perché questo con pochi voti riesce questo partito a ottenere la maggioranza dei tre quinti che è necessaria per eleggere il Presidente della Repubblica. Capisce? Questo vuol dire che si fanno fuori i check and balance che sono tipici della Costituzione italiana, questi vengono alterati e quindi c'è il rischio di una deriva da questo punto di vista. Lei dice si poteva, abbassando a 100 senatori, anche abbassare il numero di deputati in modo da mantenere un equilibrio. Certo. Allora rimaneva equilibrata. Questa sciatteria invece di ridurre il Senato a 100, abbiamo visto fra l'altro che appunto abbiamo un Senato federale ma senza federalismo, prima avevamo il federalismo e mancava il Senato federale, adesso abbiamo il Senato federale che diventa inutile perché non c'è più il federalismo, perché come abbiamo detto anche l'altra volta c'è un fortissimo processo di ricentralizzazione che sarà dannosissimo per tutto il nord, cioè per le regioni che funzionano e ci sarà come al solito uno Stato invadente al nord e uno Stato assente al sud, continuerà la solita filosofia deleteria che oggi vive in Italia. Però appunto, avendo creato questo Senato praticamente inutile, che dà solo pareri, però diventa fondamentale dentro il circuito delle elezioni che toccano al Parlamento in seduta comune. Il Parlamento in seduta comune viene letteralmente squilibrato. L'effetto pericolosissimo è poi l'Italicum, perché l'Italicum appunto ha un partito che col 25, il 28% arriva primo al ballottaggio, ottiene il 54% dei seggi della Camera. Senta, proprio sui checks and balance, cioè sui pesi e contrappesi, il professor Fusaro diceva chi avanza queste critiche, come lei ha appena ribadito, sbaglia perché dimentica oppure non dice a chi è in ascolto che in realtà i quorum per esempio per eleggere il Presidente della Repubblica li abbiamo alzati fino ai tre quinti dei votanti, che sotto lì non si va dopo un certo numero di sedute, e quindi anche chi ha avuto il premio di maggioranza ce la fa. Questo, no, io ripeto solo perché ti consento certo, di rispondere. Ma io ho fatto i conti e invito tutti a farlo. Se un partito il partito che prende il premio di maggioranza alla Camera ha bisogno di circa 48 voti, 42 voti per ottenere i tre quinti. Con 42 voti in più ottieni i tre quinti. Perché ricordiamo, l'avrebbe, diciamo, 340 seggi alla Camera, presumibilmente una quarantina di senatori sarebbero già dalla parte espressione della stessa maggioranza. Sì, infatti. Ne mancherebbero una cinquantina. Una cinquantina. Facciamo conto, la cinquantina, bastano due partitelli o qualche trasfugo e riesce a ottenere, cioè non è più l'espressione dell'unità nazionale, il Presidente della Repubblica, cioè frutto di un accordo o di un compromesso anche con l'opposizione. Qui basta una piccolissima parte dell'opposizione, magari un frammento dell'opposizione, e se riesce a ottenere praticamente i tre quinti sono facilmente raggiungibili. Cioè, se il sistema era un sistema che non aveva quel premio di maggioranza fortissimo come l'Italia, io ricordo sempre che De Gasperi si dimise per la legge truffa che prendeva un premio di maggioranza del 5%, quindi ha un premio di maggioranza anche del 40%, del 50%. Insomma, qui un pericolo, qualche pericolo per la democrazia, qui si intravede. Non è un caso anche che questo sia stato uno dei punti principali del fronte dei costituzionalisti per il no, che ha dentro persone di grande caratura dal punto di vista anche della cultura costituzionale, tanti ex presidenti della Corte Costituzionale, Franco Gallo, Valerio Nida, Enzo Peli, eccetera, eccetera. Professor Antonini, è stato come sempre chiarissimo a esporre le ragioni del no, come ieri Fusaro quelle del sì. Insomma, e andremo avanti con i due su altri temi, chiaro, naturalmente, di qua. Parleremo dei costi esatto. Se questo referendum abbatte o no i costi. Insomma, i cittadini poi si faranno una loro idea e voteranno entrando al seggio con Michelle Obama. Con Michelle Obama da una parte, scherzo, e Agnese Renzi dall'altra. Scherzo. E la domanda sarà: ma Agnese c'entrate Renzi con i tacchi o senza? Agnese, perché i giornali italiani su questo oggi dedicano grande spazio a questo affascinante tema. Vabbè. Posso dire un'ultima cosa? Come no? Viva chi si batte per questa cosa schifosa dell'UNESCO, che ha votato una risoluzione per la quale il Monte del Tempio non riguarda l'ebraismo. Purtroppo l'Italia si è astenuta. Vergognati, rappresentanza italiana, perché dire che il Monte del Tempio non ha a che fare con l'ebraismo vuol dire cedere ai terroristi islamici, punto. Ci fermiamo qui, grazie, a domani.